siamo pronti. Ma non è un ritardo di 10 minuti, un problema tecnico. Pensavamo di non farlo. Ma non è che non abbiamo lavorato, anzi, probabilmente è stato questo, cioè abbiamo talmente lavorato, ci siamo persi in un meccanismo mentale fortissimo e non abbiamo trovato un'azione. Quindi ma perché, no, se abbiamo capito una cosa in questo periodo è l'importanza di dire no. Si può dire no, c'è una potenza nella negatività. Che cos'è tutto questo accontentarsi? Tu non sei pronto, però ti dicono, vabbè dai, fallo lo stesso, tanto è tutto uguale, non se ne accorge nessuno, no? No, no, ecco, noi non ci vogliamo accontentare, anche perché di fronte a un'immagine così potente, gratuita, incomprensibile, e per di più inventata, anche se così simile alla realtà come quella di 4 pensionate greche che si tolgono volontariamente la vita sullo sfondo della crisi economica, noi che cosa facciamo? Cioè noi ci accontentiamo? No. Questa immagine, ecco, doveva piombare qua davanti a voi tutta intera, tac, così, ecco, si doveva rompere il tetto del teatro e tac. Mi sto già contraddicendo, ecco, perché dico che non lo facciamo, poi invece la tentazione di costruire qualcosa, no? Beh, ce ne siamo accorti, è veramente difficile dire no. C'è una perversione, no? Questa difficoltà proprio di stare nel no. A parte che loro no, è più un semplice affacciarsi sull'orlo di questa società in rovina, loro si affacciano e dicono ce ne andiamo per non dargli altre preoccupazioni. Adesso non è che questo è un atto d'accusa, ce ne andiamo per non dargli altre preoccupazioni. Siamo 4 pensionate, senza figli, senza un cane. Prima ci hanno ridotto la pensione che era la nostra unica entrata. Poi quando siamo andati dal dottore per le medicine ci hanno detto che i dottori erano in sciopero e che quindi non potevamo fare niente. Lo sciopero è finito, con la prescrizione siamo andati in farmacia, la mutua in debito e quindi ci dovevamo pagare le medicine con le nostre pensioni ridotte. E allora abbiamo capito che siamo di peso ai farmacisti, ai dottori, allo Stato, alla società. Solito gioco. Dico di no, poi vi dico quello che non vi sto per dire, però intanto ve l'ho detto. Poi io a casa mia non è che mi faccio questi problemi. Cioè, se a casa mia qualcuno mi dice, non so, che cosa stai lavorando, non è che comincio a dire, ah no, questo è troppo, ma questo non voglio dirci. Cioè, io a casa mia rispondo. Non so. Sai, stiamo lavorando sull'immagine di un libro senza accenti drammatici. Tu ti trovi improvvisamente dentro questo bilocale della periferia di Atene. Ci sono queste due donne anziane sedute su due poltroncine, quelle poltroncine con lo schienale basso, i braccioli di legno, sembrano come addormentati. Sai come quando ti addormenti guardando la televisione? Io quando guardo la televisione dopo 10 minuti proprio sento così. E in effetti c'è un televisore, uno di quei vecchi televisori come i grossi computer di una volta. Poi nell'altra stanza c'è questo letto doppio dove ci sono altre due donne anziane, sono andate a letto, proprio hanno gli occhi incollati al soffitto, vestite con la gonna, le calze. Hanno ai piedi del letto, ci sono le pantofole messe bene in ordine da brave donne di casa. E che in effetti tutto in questa casa brilla di un ordine. Sai come quando viene qualcuno a trovarti, vuoi fare bella figura? E anche il tavolo, quello con la tovaglia di pizzo dove c'è il messaggio, quello che finisce poi dicendo E allora noi ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, così risparmierete sulle nostre pensioni e vivrete meglio voi. La cosa che mi ha colpito di più sono le 4 carte d'identità messe perfettamente in ordine, come direi, sono state a fare altre supposizioni, abbiamo deciso, tutte e 4 insieme, eccoci qua. L'unica cosa in disordine è questa bottiglia mezza vuota di vodka lasciata sul tavolo in cucina, bevuta con i sonniferi, perché dicono che è uno dei modi più tranquilli di fare una morte sicura nel sonno. Tutto il resto è in ordine, il caos è fuori. In questa casa c'è un semplice no. Oddio, adesso semplice. Invece fuori c'è questa Atene disastrata, questa pioggia, ma già quando apri la porta di casa, già lungo le scale ti viene incontro questa padrona di casa, una quarantenne rinsecchita, inviperita, che comincia a dire: ah, io con quell'affitto ci vivo, va bene? Quella là mi doveva 4 mesi d'affitto, cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi devo suicidare anch'io per avere i miei soldi? E poi ci sono le persone fuori, sotto questa pioggia battente, che si stringono così mentre passano le salme, e ognuno di loro si riflette dentro questa immagine. Io a casa mia non parlo così, perché a casa mia succede sempre qualcosa, non so, qualcuno mi interrompe oppure mi cade un oggetto, invece qua diventa tutto così fisso. È che ci sono stati dei momenti di lavoro bellissimi. Sì. C'era un momento Monica era un po' in fondo, un po' in penombra, con questo vestito a fiori un po' spenti, aveva le mani in mano, si mordeva un po' il labbro, in un secondo è diventata una di loro, ma anch'io, io ho scoperto dentro di me delle cose che non sapevo di sapere, cioè tipo, sai, la polvere sotto il tappeto? Ecco, io ho capito che c'è un punto dentro di me in cui io potrei anche farla finita, non ce la faccio più, non mi va neanche più di farcela, io sono stufa di cercare sempre, sai, quella responsabilità, quel senso di responsabilità per trovare una soluzione, non mi va proprio, ho un tale senso di liberazione. Cioè, io adesso lo capisco, quel mio amico Marco, quando stava per morire all'ospedale ed era così sereno. Io gli ho detto: scusa Marco, ma come fai? E lui mi ha detto: ma quando tu senti l'insostenibilità della vita, quando tutto è al di là di te, poi c'è Antonio, scusa. Antonio, c'era una volta che mi ha fatto una di loro che diceva: non mi va di essere l'ultima, no? Perché è chiaro, non è che i sonniferi fanno effetto tutti allo stesso momento, per la corporatura che si è mangiato, allora era l'ultima, qualunque cosa è proprio l'ultima. Poi guardava quella seduta di fronte, niente, se n'è andata. E Valentino, mentre parlava facendo i caterini, diceva: ma io dovrei attraversare tutta questa giornata impedendomi di amare la mia vita? E lo diceva con una compostezza d'altri tempi. Ma i miei problemi economici non sono la mia vita. I miei problemi economici non mi impediscono di amare la mia vita. Ma che ti inventi una vita alla fretta? Sì, io mi invento una vita alla metà. Io insegno greco ogni mercoledì sera agli immigrati, lo sapevate questo? No, non lo sapevate. Però che senso avrebbe adesso rifare tutto questo davanti a voi? Dove finisce per tutto quello che noi abbiamo scoperto? No, io non sono d'accordo. Scusate, ma delle cose c'erano, delle cose. Non tutto, ma qualcosa si poteva fare. Sono così incazzata. me. Non mi era mai capitato di essere così spesso incazzata con me stessa. E di giorno io ce l'ho il controllo, l'ho sempre avuto. Mi metto a letto, mi addormento subito, esausta. Poi verso le 4, 4 e un quarto, tac, mi sveglio e dico, ma come ho fatto? Come ho fatto a non pensarci prima? Cioè che io come ho fatto ad arrivare a questo punto senza un margine di sicurezza? Ma tra 10 anni che faccio? A 60 anni, a 70, cosa faccio? Adesso è già tardi, è già tardi. Adesso mi tocca fare uno sforzo tutti i giorni, adesso tutti i giorni io sforzare. La tipa che mi abito di fronte, io l'ho sempre presa per il culo, una poveretta. Adesso quanto la invidio. Sì, io la invidio. Io invidio la sua sicurezza materiale, lei ha creato qualcosa di inesauribile e io che mi sentivo così coraggiosa, non banale. E adesso che fine ha fatto tutto il mio coraggio? Dov'è? Dov'è? E poi, per farmi che? Io vorrei incazzarmi con qualcosa che sta fuori di me. Perché se io continuo a incazzarmi con me, con le mie scelte, con quello che non ho previsto, io mi ammalo. Io mi ammalo. C'è sta cosa. Dice, noi vogliamo che Equitalia sia cancellata dal nord. No, no, non solo dal nord. Quando gli hanno messo le bombe, io sono stata contenta. Che orrore. Non ho pagato le multe. Che mi fanno? Che mi fanno? Quando avevo 30 anni mi dicevo faccio sta vita per 3-4 anni. No? Se va bene, bene. Se no, si cambia. Sono passati 7 anni. Ma non era così chiaro, no? Se andava bene o no, non era chiaro. Ma dico, vabbè, no, andiamo avanti ancora un paio d'anni, no? Aspettiamo di arrivare ai 40, ma non è mai chiaro, non è mai chiaro. Allora, nel frattempo che vai avanti, no? Vai avanti, ti restringi, no? Ti abbassi, ti riduci, no? Ma fino a che punto uno si può ridurre? Qual è il limite, il punto in cui uno dice no, basta, basta! È come una paura di non farcela, di non riuscire a stare al mondo. La notte mi sveglio e ho paura e comincio a pensare a tutte le cose che mi possono capitare, le più brutte. E se mi ammalo, che faccio se mi ammalo da sola? Che poi non è tanto quando uno si ammala, stai male, no? Non capisci niente, sei là, deliri. Ma dopo? No, la convalescenza, che uno sta là, che non ce la fa ancora e ti sforzi. Quella vita che non ti passa accanto. Invece questa mia amica, com'è tanto carina, sempre con quella sua voce positiva, le dice ma dai, non ti preoccupare, quando saremo vecchiette andremo a vivere tutte insieme, ci facciamo compagnia, ci aiutiamo. Io piuttosto mi sparo un colpo, ho sempre pensato, io mi sparo un colpo. Sono da qua, come faccio? Come faccio da qua a cambiare piano, no? A passare una forza di volontà proprio. È qua che se io fossi una di loro, mi piacerebbe essere uno di quelli che stanno nel letto con gli occhi rivolti verso il soffitto e aspettare di andarmene così. Questa è una condizione che conosco molto bene. Niente di drammatico, però è proprio una cosa che conosco, perché quando la notte mi sveglio di soprassalto, che è un pensiero, una preoccupazione, me ne sto così ferma per non disturbare, con i pensieri che non finisco mai, pensieri che non vanno da nessuna parte, che non ricorderò. Io penso che me ne starei proprio così, con gli occhi aperti ad aspettare di andarmene. Mi fa molto tenerezza sentire il respiro, la pancia. E l'ultimo pensiero va a quando mi addormento. Non sono mai consapevole del momento in cui mi addormento. Quel passaggio, quando si sveglio e poi no, è improvviso. Me ne sono andata. Non è questo, perché se io posso anche fare lei che muore, ma la questione è un'altra, la questione è molto più ampia, perché come, cioè, insieme a questo, io come lo porto il gesto politico? Sì, che è un gesto politico e allo stesso tempo non è politico. Che non è neanche politico, certo, perché non è Jan Paolo che si dà fuoco in una piazza di Praga. Ho visto le immagini del suo funerale. Corteo immenso di persone commosse che camminano. C'è uno studente di 21 anni. Che poi io a volte ho un pensiero, se lo so anche un po' stupido, che se muoio al mio funerale non viene nessuno. Fa 3-4 persone, passanti. Ho questa sensazione che non ho fatto abbastanza. Beh, quando sei in prova. Lavori, pensi, a un certo punto ti fermi, ma dai qualcuno a vederci, che poi qualcuno viene, magari vengono anche al tuo funerale. Magari anche al mio funerale tante persone, un corteo di persone, qualcuno commosso che piange, fa un mese senza di me che ascolta quello che dicono su di me, quindi a quel punto me ne posso anche andare con la sensazione che vivere è servito qualcosa. Servito cosa? Cosa vuol dire poi servito a qualcosa? C'è quel monaco, Kinquanduk, quel monaco, era un monaco vietnamita che nel 1963 si è dato fuoco in piazza Saigon per protestare contro le persecuzioni alla sua religione, il buddismo. Quando i suoi compagni sono andati a prendere i suoi resti per cremarlo, hanno trovato il suo cuore perfettamente intatto. La cosa difficile non è fare una di loro. Cioè, c'è l'altra che si sdraia accanto e dice: è molto tempo che non dormo. È dal 21 marzo del 1985. No, non dal 21, dal 20. Lui è morto. Mi sento come pietrificata. Ho perso il senso della fisicità. Ti posso toccare? C'è questo momento in cui mi prende la mano. Ci deve essere stato un momento fra queste due donne che forse non sono così amiche da prima. Un momento di complicità, cioè la complicità si è formata proprio attorno a questo gesto. Mi prende la mano. Così. Si sente come una ragazzina di 16 anni, con l'amichetta, che poi se dovessi essere qua che sto per morire e l'ho scelto, e sto con le persone con cui voglio morire, stai bene, una pace, tutto saranno sanniferi anche qui, oppure la bocca, è andata la testa, comincia a ridere. Ma chi ce l'ha fatto fare? Poco dopo entra e dice io voglio che mi trovino ordinata, pulita, a posto. Ora passi per la gonna che ha fatto il suo tempo, ma le calze col buco no, ecco, io non voglio morire con le calze bucate, un paio di calze. Oppure se non senti il pianto della signora che sta fuori dall'appartamento insieme all'altra gente mentre portano via i quattro corpi, e lei sta lì che piange, no, sotto questa pioggia battente, dice: io vedo mio figlio che se ne sta tutto il giorno davanti al computer a cercare lavoro su internet, e mi chiedo che cosa faremo quando ci staccheranno il telefono, dato che non abbiamo di che pagare le bollette. Oppure c'è la signora accanto che dice: è che non avevano figli. C'è una frase così assurda e anche così vera. Però scusate. La sto cercando di capire. Serve un gesto, cioè un gesto semplice, però qualcosa in grado di spazzare via tutti questi pensieri che non riescono più a portarci da nessuna parte. Sono un'azione, ecco, un'azione concreta. Il corpo, ecco, il corpo, l'unica cosa che ci rimane è il corpo. Anzi, l'unica cosa che ci rimane, che nessuno può toglierci, è il corpo. Poi tutto questo non è che non lo vedo. C'è tutto questo, c'è intorno, sei qua. Cioè io mi sveglio la mattina nel letto e penso al tappezziere. Non posso stare nel letto e pensare al tappezziere. C'è quest'uomo seduto nel suo negozietto sotto una luce al neon, aspetta che entra qualcuno. Non entra più nessuno. Cioè cosa aspetti? C'è il tavolo da lavoro di legno senza più neanche un utensile, vuoto. La macchina da cucire non toglie più neanche la copertura. Due poltrone girofonate non vengono più neanche a ritirarla, niente. Io mi dico, posso stare lì nel letto e pensare al tappezziere? Dico, cosa c'entro io col tappezziere? Cioè mi si è rotta la tapparella, la cinghia della tapparella, sono andato al ferramenta, riconosco l'ago, mi serve chiavi, non va, non va, niente, chiudiamo. Come chiudete? Il padrone ha deciso. Io dico, scusa, ma quanti siete? 5, 7, fate qualcosa, non so, organizzatevi, so, prendete voi in mano il negozio. Ci abbiamo provato, il padrone ha detto di no. L'unica cosa di cui è stato capace di fare è aumentare un'ora la vostra pranzo, così ci dà 100 euro di meno. Vedete adesso cosa fate? Ce ne andiamo, per strada. Poi mi guarda e mi dice, ho un figlio, una moglie, nulla da pagare. Ma che dovremmo fare? Che dovevo fare? Io sono tornato a casa col sacchettino di plastica con dentro la cinghia della tapparella, l'ho appoggiato, non l'ho più toccato, la tapparella è ancora rotta. Cioè ogni volta che mi cade, mi ricordo con questo sacchetto, mi viene in mente la faccia di quest'uomo che mi guarda e mi dice, ma che dovevo fare? Ma a me è dovunque, anche i sogni, la notte, io qualche giorno fa ho sognato, mi arriva una lettera, apro la cartella esattoriale dell'INPS, gentile utente, la prego, cerco di capire, risultava che non avevo pagato i contributi di tutta la vita, cioè devo pagare una cifra astronomica, non si chiede, ma come ho fatto a non accorgermi? Che poi io all'entrata lì ho due avvisi di raccomandata scaduti, io non li tocco, io alla posta non ci vado, un sogno, un presagio, non ci vado, perché dico, ho aiutato una mia amica a traslocare perché non riusciva più a pagare l'affitto in città troppo caro, beh dopo neanche 7 mesi mi richiama e mi dice sai che non ce la faccio più a pagare l'affitto neanche in campagna, troppo caro, adesso cosa fare? Adesso non so, mi appoggio. Io ho capito, ho cercato così di tirare su questa positività insopportabile, ma dai non ti preoccupare, qualche modo le cose si risolvono, ti ospiteranno degli amici, sai, nuove case, nuovi quartieri, nuove musiche. Beh, lei dall'altra parte del telefono non ha detto niente, era già un funerale. Che poi se io dovessi perdere la casa, non sapessi più dove andare a dormire, qualcuno ha il coraggio di dire non ti preoccupare, dai, ti ospiteranno, ti appoggio, poi lo prendono attacco contro un muro l'attacco. Stavo facendo la doccia, mi squilla il cellulare, non posso rispondere, poi richiamo una mia amica, che non sento da un po', pensavo fosse una cosa veloce, e comincia a parlare, 5, 10, 15 minuti, io ascolto, perché poi a un certo punto però dall'altra parte del cervello penso, ho fatto la ricarica del cellulare proprio ieri, 10 euro, vuoi che mi durino almeno una settimana? E parla 30 minuti di telefono, a un certo punto penso mi infilo nelle micropause, e dico, senti, magari che dici, mi richiami, così facciamo metà della telefonata, non ho avuto neanche la prontezza, 50 minuti di telefonata, bruciata dalla carica del cellulare. E poi lei cercava di dirmi, così di spiegarmi, come si sentiva dopo che è morto suo figlio. Qui, adesso, un gesto semplice, un'azione concreta, anche incomprensibile, però almeno poi ognuno capirà quello che potrà, che riuscirà a capire. Questo sfondo, la realtà che è più nera del nero, ma era questo, ma è finito, adesso non me l'ero, questa è una cosa risolutiva, ma che proprio non so, sfondare nero, la realtà che è più nera del nero. Cioè non confidavo sull'astrazione, ma sulla potenza dell'astrazione, ma sai, questo bordo terribile, tu sei lì che resisti, o non sai se sei risucchiato. La tristezza. Tu sei la gonna. No, perché la gonna era un link con la merceria delle sale cinesche. Vabbè, poi non è che uno da solo può... Adesso basta, finiamo. Ma come basta? Come basta? Noi non ce ne possiamo andare senza aver detto prima cosa... Come sono... Scusate, magari vi starete anche chiedendo chi sono io. Me lo chiedo io, sono stato lì fermo, dipinto mezz'ora, non ho detto una parola, ma questa non è la cosa importante, poi dopo forse si capisce, ma se c'è una cosa che noi... Mi hanno chiamato per fare la quarta, no. Io, proviamo a farle, tanto non è che c'è un problema di verosimiglianza, no? Non è che posso sembrare una pensionata... No, sessantenne, greca, allora massima libertà, nessun physique du role, proviamo a fare a un certo livello. Proviamo, proviamo. È una scena bella, difficile. I 5 minuti dopo che hanno preso i sonniferi. Ci sono pochissime cose. C'è un tavolo. E sopra il tavolo solamente una bottiglia, la bottiglia di vodka, accanto il barattolino delle pasticche. Adesso queste sono vitamine mie, costosissime. E quattro bicchieri, poi qualcuno dovrà ricordarsi di togliere i bicchieri perché alla fine nell'immagine non ci sono. E le quattro carte d'identità di Caterini Sectaridi, 70 anni, Angeliki Statopoulou, 68 anni, Vasiliki Pazzi, 63 anni, e di Lucia Caritonidou, 69 anni. È una scena fatta di nulla, di silenzi, di sguardi, fa un freddo. Voi non avete freddo? Non è molto freddo, tutto il corpo. C'è un televisore acceso, adesso lo faccio con il cellulare. In televisione danno uno di quei vecchi film in bianco e nero, quelli che danno l'estate, c'è una cantante in primo piano e dietro una coppia che discute. C'è una cosa che mi dispiace da morire, è di non aver avuto un figlio, ma non per adesso, anzi. Mi dispiace di non sapere cosa vuol dire fare un figlio. Adesso avrebbe 34 anni. Ma neanche... non mi sono presa neanche un cane, un cagnolino. Uno dice che è sempre tempo, una gran fregatura, sempre tempo. Poi incontri quelle signore anziane per strada, un cagnolino che ci parlano, allora dici vabbè, aspettiamo un altro po'. E nonostante la morte che arriva, c'è una grande pace. La responsabilità il gesto. Non è che non siamo pronti. Non è che non siamo pronti a farle. Il problema è arrivato da fuori perché una mattina apriamo il giornale e leggiamo una notizia. 3 pensionati si uccidono soffocati dai debiti. A Civitanova Marche, vicino a Macerata. La macchina pignorata, 3 mesi di affitto arretrato, cartelle esattoriali dell'INPS, le nostre anziane avevano avuto le pensioni dimezzate e loro non erano neanche riusciti ad avere le pensioni dopo una vita di lavoro e una serie di coincidenze assurde, incredibili, la bottiglia di liquore lasciata aperta sul tavolo, le carte d'identità ben in vista, la casa perfettamente in ordine. Anche loro avevano lasciato un messaggio che diceva perdonateci, perdonateci. Avevano incorniciato e appeso lungo le pareti di casa tutte le banconote del mondo, quelle che raccogli nei viaggi, soldi, e abbiamo smesso di provare. Ci siamo messi a leggere per cercare di informarci, capire. Abbiamo letto il blog di una ragazza che non era neanche una loro parente, che attraversa questo centro Italia desolato, con i capannoni vuoti, le campagne abbandonate, le scritte vendesi per andare ai loro funerali, arriva in questa piazza stracolma, nella chiesa non si riesce neanche ad entrare, e quando escono le bare si crea un improvviso silenzio e tutti incominciano ad applaudire tutti insieme. Racconta che c'è una signora vicino a lei che scuote la testa, che dice: ma perché applaudono? Bisognerebbe piangere. Questo non è più un romanzo, non è più un'immagine. E noi cosa ci mettiamo a fare? Gli ultimi 5 minuti dopo che hanno preso le pasticche, sì, va bene, il simbolo, la potenza del no, la responsabilità del gesto, ma poi cosa rischiamo di dire anche? Togliersi la vita è un diritto, una soluzione, una porta nello spazio soffocante della disperazione più cupa che puoi aprire quando ti hanno tolto tutto, tu allora puoi scegliere. No. Sì, d'accordo. Adesso mi domando una cosa, giuro l'ultima. Adesso la domando a voi. Come uno può mostrarsi disperato? O uno se ne deve per forza vergognare? Solo so benissimo che una cosa che uno dovrebbe fare a casa sua da solo senza che nessuno ti vede, poi in teatro, poi all'ultimo dei posti dove uno può disperarsi, non si usa più. So, però io me ne posso stare qui, davanti a voi, un'ora fermo, senza fare niente. Come quando mi sto a casa da solo, con le mani in mano, seduto, e di questo mi alzo, poi passa un'ora e sono ancora lì. E poi mi dico, vabbè, 5 minuti, sto ancora per 5 minuti, giuro, 5 minuti, 5, poi mi alzo, faccio qualcosa, passa un'ora e sono ancora lì. Posso prevedere, so come mi infilo proprio le unghie nel palmo della mano, so, posso piangere. Però ecco, io adesso avevo bisogno di, non so, buttarmi per terra e piangere, non so, per 3 giorni di fila, ecco, forse 3 giorni basterebbero, non so. Che giorno è oggi? 17 giugno. È oggi, quello che io so oggi, quello che sappiamo è che fino ad oggi ci sono stati 3.500 suicidi. Che il 65% dei ragazzi sono senza lavoro, 2 su 3, che non c'è più l'assistenza sanitaria, che è aumentata la droga, la prostituzione, c'è gente che continua a dormire in macchina, sempre di più, sempre di più, sempre di più, per strada, dormono per strada. E questo è quello che so, che sappiamo oggi, quello che almeno ci fanno sapere. Però fra un mese... Fra un mese, fra 3 mesi, fra un anno, cioè, ecco, se fra 3 anni la crisi poi si sposta in Finlandia, cioè, come faccio io? Cioè, come facciamo a passare questo tempo dentro un tempo? Cioè, come faccio io o noi a dire allora questo è il tempo di questo tempo qui? Non si risolvono. certo ti vengono a dire che poi a un certo punto una soluzione arriva così all'improvviso, tanto un'illuminazione, no, la soluzione non c'è. Non so, forse ci vorrebbe un salto nel buio. Il problema è che non faccio neanche il tempo a dirlo, a pensarlo, ho bruciato, tu pensarci nel buio. Bruciato. Come si esce da una crisi? Qualcuno dice che bisognerebbe chiudere con tutto, chiudere con il neoliberismo, chiudere con le carte di credito, le carte di debito, chiudere questa falsa idea di progresso, chiudere. Chiudiamo. Voi però potreste non fissarci così? Stesso Chanel, no? Quello un po' pastello, l'oggettino, la camicetta ci do, mi metto il braccialetto di mia mamma, un anello, un chilo, ma vado sopra, io sotto sono a posto. Quando sono andata all'obitorio, a vedere mia madre, ero così preoccupata, ho detto, Dio, no, perché ultimamente avevo questo viso così sofferente, io sono stata così contenta, ho detto subito a mia sorella, ho detto, Dio, guarda quanto è bella la mamma, perché le erano andate via tutte le rughe, avevo questo viso così disteso, poi avevo un sorriso piccolo e anche se aveva gli occhi chiusi, avevo uno sguardo così aperto. Ultimamente noto molto di più le persone. Prendo un po' di tempo, no? Un po' più di tempo di prima. Prima tutto di corsa, tutto mi dov'è. So, supermercato adesso, due cose, le dico, no? Allora, alla cassiera, che vengo il film, cose così. Poi adesso ho cambiato supermercato, vado di scatole, le cose costano con me, ma anche un po' più facile, no? Il supermercato di prima, cioè, gli scaffali pieni di prodotti, una parete di yogurt, quindi il mirtillo, il cioccolato, il biscottino e i due gusti. Adesso diamo la frutta, perché è ovvio che ti casca l'occhio su quel disgraziato, sta lì chinato a prendere una birra, il cartone, lo strappa, perché adesso le cose stanno nei cartoni, gli scaffali. Lo seguo, lo sguardo, vedo che mette sta birra nel carrello vuoto, magari no? Un pacco di crackers. Allora lo guardo, mentre va verso la cassa. La cosa che mi dispiace di più è che non ho mai imparato a ballare il sirtaki. Neanche i passi base. Il sirtaki. Qualcuno mi potrebbe insegnare? Solo i passi base. Così posso dire, l'ho fatto. Come quando pensavo che mi sarei sposata. Poi, come è successo? Ah, sono andata da un mio amico e io ti prego, se a 70 anni non sono ancora sposata, fallo tu, cioè sposami tu. Sì, l'ho fatto. Non saprei neanche da che parte cominciare. Il sirtaki. Vai, adesso una di voi mi insegna a ballare sirtaki. Che poi io mi sono sempre vergognata. E alle feste, alla fine, si mettono tutti in cerchio a ballare i sirtaki. Io mi sono sempre rifiutata. Mi inventavo le peggio cose. Sai, cioè, dicevo, il sirtaki non è mica un ballo popolare. Il sirtaki è stato inventato per un film. Anthony Quinn, eh? Che balla i sirtaki sulla spiaggia con la camicia bianca. Ma chi ci crede? Però adesso almeno i passi base. Dai, gli ultimi 10 minuti mi insegnate i passi base. Gli ultimi 10 minuti, cioè solo i passi base. 10 minuti di spettacolo puro. Ma perché nessuno mi sta mai a sentire su questo fatto del sirtaki? Perché per me non potrebbe essere importante ballare sirtaki? Ma chi lo decide? Io adesso voglio sapere chi stabilisce le priorità, cioè chi è che decide cosa è importante e cosa non lo è. Al funerale di Angelopoulos giallo nero, vestiti di nero, e tutti insieme si sono messi a ballare il sirtaki. E poi c'è questo momento che mi piace tantissimo, quando con la mano battono per terra, mi fanno